24 mattino. Buongiorno, buongiorno da Giulia Crivelli. E Alessandro oggi non c'è, lo sostituisco, come dico sempre, scherzando un po' indegnamente. In ogni caso, insomma, cercherò di fare del mio meglio come sempre. Vi ricordo che potete mandare i vostri messaggi al 349-238-6666 o io ho un account Twitter che è Giulia_Crivelli. Abbiamo i nostri due ospiti, Aurora Lussana e Carlo Rienzi. Mi fa molto piacere soprattutto per Aurora, perché io l'ascolto sempre, ma è la prima volta che ho l'opportunità di parlarle direttamente. E naturalmente, dico naturalmente perché domani saremo tutti noi dei mezzi di informazione in silenzio elettorale, quindi per quanto questa maratona abbia stroncato tutti, credo, oggi penso che sia giusto parlare, insomma, fare delle ultime considerazioni sul referendum per il quale andremo a votare poi domenica. E allora, prima appunto di chiedere ai miei ospiti cosa pensano delle ultimissime dichiarazioni, sentiamo Renzi, che nel suo Matteo risponde ha fatto questa mossa molto contestata di mostrare una scheda che in realtà non esiste ancora, esiste nei suoi sogni praticamente, per una ipotetica elezione a un ipotetico Senato che venisse fuori da questa riforma costituzionale e dalla probabile seguente legge elettorale. Sentiamo Renzi. È un facsimile, anzi scriviamoci facsimile, perché sennò poi diventa un problema, mettiamoci un bel facsimile sopra che... Ma il punto fondamentale è che il cittadino potrà scegliere all'interno del suo partito quale consigliere regionale invitare a svolgere la funzione di senatore anche. Quindi si vota. Ecco, Aurora, cosa ne dici? Perché insomma ha scatenato una tempesta questo facsimile, come l'ho chiamato. Vabbè, ma siamo abituati, il nostro premier Boy Scout è così, insomma, lui è un creativo, suggestivo, ci fa sempre un po' sognare, stavolta ci fa sognare la scheda elettorale del Senato, che se vince il sì non la vedremo più, perché ci verrà sottratta questa possibilità di esprimerci. E siamo nella fase, la chiamano della post-verità, cioè che pare sarà un po' la parola dell'anno, no? Dell'Oxford Dictionary, sì. Dicono che appunto queste notizie false che continuano a circolare, un po' come questa finta scheda elettorale che Renzi ha mostrato, è pura propaganda politica che ci porterà proprio a un'evoluzione del rapporto fra potere e informazione, no? I fatti oggettivi non ci interessano più nella formazione dell'opinione pubblica, ci sono questi appelli emotivi con le finte schede elettorali. È sì. Così, lo conosciamo ormai da tre anni che è al governo, è così il nostro premier Boscaut. Sì, non è arrivato a dire, come ha fatto Grillo, di votare con la pancia, che insomma è una dichiarazione forte anche quella, però sicuramente, insomma, anche con tutte queste battute fa appello appunto al non mettersi tutti seri a ragionare. E volevo chiedere a Carlo Rienzi, perché tra l'altro proprio ieri è arrivata la bocciatura di un ricorso che il Codacons, di cui è presidente, si era fatto portatore. Tra l'altro oggi ci sarà l'ultimissima pronuncia, questo addirittura è un ricorso, è un appello, perché la prima sentenza c'è già stata, il ricorso è quello di Onida, ex presidente della Corte Costituzionale. E sul ricorso che avevate presentato voi, che quanta delusione c'è nel fatto che sia stato, come molti pensavano, respinto? No, oggi aspettiamo il Consiglio di Stato, dove siamo anche noi, l'ultima pronuncia. Sul ricorso della Cassazione, la delusione è che nessuno dice chi può verificare che il quesito è fatto male, perché tutti dicono sì, è fatto male, nel senso che la legge prevedeva di indicare tutte le norme che vengono modificate, e invece hanno messo soltanto la domanda a cui tutti rispondono sì, sicuramente, vuoi diminuire i costi della politica? Gli italiani, quando sentono una domanda del genere, si precipitano a dire certo, sono tutti banditi politici, guadagnano troppo, eccetera. Quindi è stata fatta un'astuzia contro una legge del 1970 che invece era completamente diversa, ma dicono beh, ma tanto non si può contestare, l'ha detto la Cassazione, ormai nessuno può entrare nel merito di questa cosa. Quindi la delusione è che non c'è un giudice in grado di dire quello che è giusto e quello che è sbagliato. L'altro problema che si parlava di prima è che nessuno dibatte in questi giorni sul vero problema, che è quello della mix tra legge elettorale e riforma. Certo. Cioè, questo mix fa sì che domani chi prende nel ballottaggio col 20% dei consensi il più voti avrà talmente tanti seggi che potrà nominare tutti quegli organi che servono per tutelare le minoranze, sì, a cioè questo, quelli che la pensano diversamente. Cioè, ricordiamo che, ma poi naturalmente anche su questo si può discutere, perché sulle intenzioni si può sempre discutere. Le intenzioni non servono a niente. Nel senso che è stato annunciato appunto che se certo. vincerà il sì, lo ha detto ieri ancora Renzi, è già pronta appunto la discussione per cambiare il famigerato Italicum. Ma sentiamo, visto che insomma abbiamo appunto Aurora Lussana ospite, sentiamo cosa ha detto ieri Salvini, su questa, il leader della Lega, su questa riforma. Il sindaco di Venezia dice: la riforma fa schifo, però la voto. Benigni: la riforma fa schifo, però la voto. Poi vedo questi padri costituenti, con tutto rispetto, da Ilaria D'Amico a Lapo Elkan, anche a qualche traversia, non so se riuscirà a votare sì, se rientra in tempo. Ecco, diciamo che anche qui un po' di ironia di quella di cui parlavamo prima c'è stata, però Aurora, insomma, questo è vero, molte persone hanno detto, usando varie espressioni, io voto tappandomi il naso, anche se non mi piace fino in fondo, ma penso anche ad altri che Salvini non ha nominato, come Cacciari, lo stesso Prodi, di cui magari parleremo dopo. E tu cosa pensi di questo, appunto, di questo voto con un così condizionato, ecco? Ma il 4 di dicembre è un momento di sfida anche tutta interna al mondo, al complesso, articolatissimo mondo della sinistra che fu in Italia. Posso immaginare le sofferenze, i travagli che stanno vivendo i grandi leader che furono della sinistra italiana. Quindi, ripeto, non solo sarà un'ordalia per il paese, per Renzi, ma anche per chi in questi anni di governo renziano, insomma, con fatica ha digerito proprio una trasformazione antropologica della sinistra di governo. Quindi, come dice Prodi, sì, anche lui cos'è che ha detto, che si ciuccia l'osso, che rimane l'osso da mangiare, non lo so, oggi sto facendo il brasato e non lo so, insomma, si spera che le riforme, ecco, non siano un osso da ciucciare, ma insomma un pochino più di consistenti come il mio brasato alla bergamasca, che insomma sia anche di buon auspicio per il voto di domani, anche perché il brasato noi lo facciamo qualche giorno prima, proprio per lasciarle decantare, ecco, certo, lo mangerò che è più buono riscaldato domenica prima di andare a votare, che così, ecco, spero anche porti buono, che sia corroborante, che ci sia una bella giornata per tutti, ecco, il 4. Adesso va detto anche, perché tra l'altro un ascoltatore ce lo ricorda, sembra quasi che non rispettiate la par condicio, va detto sulla questione del sì, che lo stesso Matteo Renzi ha ripetuto anche ieri sera, adesso magari lo sentiamo sulle dichiarazioni sulla minaccia di Grillo di denunciarlo per questa presentazione di facsimile di scheda elettorale, ha sempre detto nessuna riforma è perfetta e ogni riforma è perfettibile, lo stesso ha detto anche la ministra Boschi nelle sue recenti apparizioni per difendere appunto il sì alla sua appunto riforma, quindi devo dire che nessuno ha mai detto è una riforma perfetta. Certo, chi vota per il sì dice che è comunque un cambiamento, un importante cambiamento, però appunto sentiamo, perché c'è Grillo che ha lanciato questa ennesima, chiamiamola provocazione, perché in realtà ha minacciato una denuncia per un reato che è stato depenalizzato, ma sentiamolo. Arriva è stato depenalizzato, no, il reato. Lo so, il suo governo l'ha depenalizzato. No, anche Grillo non se ne è accorto, perché i suoi in Parlamento non ci vanno spesso, ma quel reato non è più, lui dice, abuso della credulità popolare. Beppe, non è più reato, e questo ti salva sulle scie chimiche, sulle sirene nel Mediterraneo, su tante altre questioni che hanno detto i tuoi. Parliamo di cose serie, parliamo del referendum, dai, non facciamo polemica. Vabbè, questo era ieri Renzi appunto dalla Gruber, aveva di fianco Norma Rangeri, direttore del Manifesto, che lo ha molto incalzato, anche perché il Manifesto, come vedremo poi nella rassegna stampa, è uno di quei giornali proprio fin dall'inizio per il no. Devo dire che dall'altra parte non ce ne sono, cioè ci sono alcuni giornali appunto apertamente schierati per il no, apertamente schierati per il sì. Questo è proprio una questione di par condicio, spero che gli ascoltatori non se ne vogliano, proprio non ce n'è. Però a Carlo Renzi volevo chiedere, su questa, a parte a me non piace l'idea di reato di abuso di credulità popolare, il che vuol dire come se fossimo tutti dei creduloni, che non è detto, insomma, spero almeno che non sia così. Però secondo te c'è un fondamento in questo sollevare la questione di un premier che presenta una scheda che in realtà non esiste e forse non esisterà mai? Io ho visto quello che ha mandato a casa gli italiani, che è pieno di cose incredibili. Cioè, è chiaro che ingannare le persone è sbagliato, poi reato o non reato ha poca importanza. Ma io vorrei tornare un attimo sull'inganno del faremo poi la modifica alla legge elettorale, perché la gente deve capire che non è il problema del faremo non basta. Perché? Perché chi penserà dopo la riforma di vincere le elezioni, cioè i due, Grillo e Renzi, no, perché loro lo pensano, ormai sono i due che possono vincere, non ci sono altri, tutti e due, e ieri l'abbiamo visto al Consiglio di Stato quando la difesa dei 5 Stelle ha mollato, ha detto vabbè, ma insomma non è che ci teniamo poi tanto a cambiare sto quesito. Cioè tutti e due avranno piacere ad avere questa riforma, perché penseranno tutti e due di vincere, perché chi vince potrà dominare, avere la supremazia sulle regioni, avere la possibilità di nominare i giudici della Corte Costituzionale, praticamente 7 su 15. E questo significa che se noi domani vorremmo portare una legge sbagliata fatta da loro, da chi vince, alla Corte Costituzionale perché riteniamo, che ne so, che è illegittima, perché vieta di far entrare gli immigrati nel nostro paese, faccio un esempio, no? Se fosse Salvini a vincere sarebbe una legge fatta immediatamente. Faccio un esempio assurdo, no? Non riusciremmo poi a farla annullare, perché la maggioranza della Corte sarebbe espressione del governo. Questi sono i problemi. Allora dovevano cambiarla prima l'Italicum, dovevano cambiare la legge elettorale per dare fiducia e avremmo votato in tanti più, sì. Certo, questo è stata una critica sollevata da molti, cioè dire a posteriori non preoccupatevi, poi l'Italicum lo cambieremo, perché intanto è il famoso così, combinato disposto, questa terribile espressione appunto è cominciato a saltare fuori a metà campagna elettorale. Un'ultima cosa prima del traffico volevo chiedere ad Aurora, hai sentito Carlo che diceva una delle prime leggi che Salvini farebbe sarebbe per chiudere i confini, tu credi che sarebbe una scelta così drastica? O... Ma io penso sempre che se uno ha qualcosa di importante da difendere, di solito insomma almeno chiude la porta. Ecco, a me piacciono più che i muri le porte, si possono aprire e chiudere le porte. Quando entra qualcuno per bene l'apriamo, se entra qualcuno che non va mica bene si può sempre chiudere la porta. Ripeto, se uno in casa c'ha qualcosa di proteggere la chiude magari la porta, se uno non c'ha niente da proteggere, penso di essere un terreno di conquista, spalanca le porte a tutti quelli che arrivano qui. Tra l'altro poi vedremo appunto anche oggi sui giornali, ci sono nuovi dati anche sull'immigrazione e anche su una nuova ondata migratoria che l'avvenire per esempio imputa ai cambiamenti climatici, perché ci sono anche molti paesi da cui le persone scappano perché le condizioni climatiche stanno diventando ancora più difficili. Ci fermiamo però un attimo per il traffico e poi vi provocherò ancora con un Renzi e con un Berlusconi. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... Fatemi dire da qui, da Ancona oggi, grazie a Romano Prodi che proprio qualche minuto fa ha detto che voterà sì, pur non condividendo tutto. Pur non condividendo tutto, anzi... Eccoci qua, quindi appunto una delle tanti, dei tanti commenti che ha fatto Renzi a questa dichiarazione che è arrivata proprio negli ultimi giorni di Prodi. In molti si chiedevano se appunto avrebbe dichiarato che cosa votava, l'ha fatto e con tutti i distinguo che abbiamo detto. Su questo voto di Prodi, Aurora, secondo te sarà una alla fine tutti si chiedono, ma aiuterà davvero la causa del sì o forse addirittura non l'aiuta, aiuta anzi la causa del no, visto che Prodi è sicuramente un politico che suscita sempre, come vedremo anche dopo sentendo quello che ha detto Forchielli di lui proprio ieri qui, che insomma suscita reazioni estreme. Ma Romano Prodi è il padrino dell'euro e insomma sicuramente una figura che in Italia rimanda un po' di sciagure dall'Iris, sì, insomma, ricordiamo la severa legge bancaria che ci avevamo quando è arrivato poi il tempo di Prodi e l'affondamento dell'IRI, insomma, sicuramente un uomo che si lega a tante vicende del nostro paese, non certo felici. Ripeto però che, lo ripeto da giorni, che però, lo sappiamo tutti, Prodi aveva il famoso fattore C, che lo ha sempre accompagnato. E quindi, insomma, ripeto, una figura, il nostro padrino dell'euro, una figura di rimente, una figura, non so dire se è d'aiuto o meno. Ripeto, una figura molto invisa, però c'ha il fattore C. Molto fortunato l'uomo, quindi schierandosi col sì potrebbe portare un bel vantaggio. Carlo, tu pensi che la fortuna di Prodi appunto sia sempre quella, che la fortuna, per carità, è importantissima nella vita, credo, la fortuna, il tempismo. questa sua dichiarazione così chiara, secondo te aiuterà il fronte del sì o aiuterà magari addirittura paradossalmente quello del no? Ma io credo che sarà del tutto irrilevante, perché la gente andrà a votare una parte perché è ingannata dal quesito che gli dice vuoi andare contro la politica, e quindi tutti quelli delle piazze di Del Debbio andranno a votare sì perché finalmente qualcuno ci dà questa possibilità, poi si accorgeranno dopo che hanno votato anche per portare 800.000 i voti per fare un referendum, le firme per fare un referendum e altre cose che molto poco buone. E quindi una parte, un'altra parte voterà pro o contro Renzi, cioè è diventato ormai così chiaro che chi vuole mandare via Renzi voterà no, e chi lo vuole tenere voterà sì anche se non gli piace. Cioè, evidentemente a Prodi piace più Renzi che questi che dicono sì non mi piace ma voto sì, piace tenere Renzi perché tutto sommato esprime in teoria un partito di sinistra, molto in teoria naturalmente, perché ha fatto più cose di destra di Berlusconi sicuramente, non è, quindi... Ecco, allora sentiamo, ma davvero spero che gli ascoltatori, non almeno quelli che stanno mandando i messaggi più così critici, non se la prendano troppo. Forchielli, chi ascolta questa radio lo conosce, ha un linguaggio molto colorito, e ieri su Prodi si è espresso così. A Prudone mi ha fatto una pipa che cosa vuol dire? È un filo della mignotta. Alberto, dai. Ho fatto un pipo. Ecco, perché poi appunto bisogna anche è vero che il certo linguaggio, insomma, in Emilia Romagna è più comune, che io non voglio entrare in questa polemica, che perché poi si pensa tutti subito a De Luca, che viene giustificato o accusato per alcune sue espressioni, e chi lo giustifica dice vabbè, ma ci si può esprimere così. In ogni caso, insomma, Prodi, ragione Aurora, figura controversa. Volevo toccare invece un attimo il tema Berlusconi, perché ieri ha detto che prima, Carlo, hai detto i due partiti in realtà. Del Debbio, l'ho visto. Sì, io non me ne perdo una da qui al 4. Vabbè, sei staccanovista. La bambina, guardiamo tutto. Prima Carlo ha detto i due partiti in realtà che andranno probabilmente al ballottaggio con questa, se si voterà, con questa, sono il Movimento 5 Stelle e PD. Allora Berlusconi ieri ha anche detto, si è anche espresso sulla possibilità appunto di un'eventuale vittoria del Movimento 5 Stelle, quindi di Grillo. Che la paura che Grillo vada al governo. Ce ne andiamo. Le offro un passaggio sul mio aereo per andare all'estero. Insieme con Renzi, fa l'isola dei famosi. Se arrivasse Grillo al governo, anche Renzi sarebbe d'accordo di venire con noi. Quindi deve fare proprio un'imbarcata. Sappia giocare a poker. Speriamo che sappia giocare a poker. Ecco, questo tipo di dichiarazioni le abbiamo sentite tante volte, no? Ricordiamo chi diceva che se Berlusconi avesse di nuovo vinto sarebbe andato all'estero, e naturalmente non ci è andato. E quindi questa avversione di Berlusconi per il Movimento 5 Stelle è positiva comunque per il fronte del no, del quale fa parte anche il Movimento 5 Stelle, o no, secondo voi? Magari Carlo, se vuoi, visto. Ma che secondo me la paura che vinca qualcuno è per chiunque vinca, questo non si vuol capire. O vince Gasparri, o Salvini, o Berlusconi, o Grillo, o Renzi. Io parlo dal punto di vista dei cittadini, dobbiamo avere paura, perché un partito non ha la capacità da solo di tutelare anche chi non la pensa come lui, e quindi le minoranze saranno schiacciate da un sistema, ripeto, che come fanno una legge fatta male e la vuoi contestare, ti soffoca come fanno, come proponi una legge buona, non te la portano avanti, perché questo è il punto, è una sorta di autoritarismo dell'unico partito vincitore che è legato a questo mix terribile tra legge elettorale e riforma. Cioè non ci sarebbe quel bilanciamento. Io ho paura di chiunque vinca. Non c'è quel bilanciamento di poteri che è alla, secondo te, che è alla base della democrazia. Aurora, però tu dicevi prima, adesso abbiamo sentito Vespa, però tu invece parlavi delle dichiarazioni di Berlusconi del Debbio, che ha fatto l'ennesimo endorsement, che poi non portano tanta fortuna, perché quando aveva designato Parisi poi si è un po' rimangiato la parola. Male, e questo però, quest'ultima dichiarazione di Berlusconi, che vediamo, insomma, gioca molto, perché con le parole è un po' anche il suo stile. Tu cosa ne pensi? Vabbè, a parte che lui si riferiva a Trump dicendo una grande verità, che insomma Trump è molto conosciuto dal pubblico americano televisivo, che è 20 anni che lo vede in TV, e quindi sicuramente trovare delle persone molto conosciute in televisione significa poter vincere le elezioni, quindi caro Del Debbio, preparati. Non lo so. Di sicuro, cos'è che ha detto? Che se vince il no, prende Renzi a Mediaset, come dice lui, a fare presentazione dell'Isola dei Famosi. Sì, l'ho visto in forma, ma ne dice sempre un po' troppe. Ero rimasta a Parigi, adesso Del Debbio, che facciano le primarie nel centrodestra, che almeno insomma, ecco, si capisce chi è il leader. Sì, perché effettivamente c'è un problema di leadership nel centrodestra, così come forse ci sarebbe in un dopo Renzi per il centrosinistra. Carlo, e tu come vedi queste sparate un po' di Berlusconi e soprattutto questa idea che è importante essere dei personaggi televisivi ancor prima che dei politici per lanciarsi in un'avventura politica? Mi pare che questo l'abbia capito benissimo anche Renzi, perché io ogni volta che accendo la televisione lo vedo. Non so se è un caso oppure da par condicio sono andato a far benedire. A me Berlusconi mi ha fatto un po' tenerezza, perché lo vedo stanco, probabilmente l'essere della sua malattia, quindi non mi sembra, addirittura aveva anche un po' di difficoltà nell'articolare il discorso, non so se avete fatto caso, non voglio fare l'uccello del malagurio, ma mi sembra che sia il momento per lui di riposarsi, quindi non lo voglio giudicare, credo che non avrà nessuna rilevanza il centrodestra da qui a parecchi anni, e che quindi il bipolarismo sarà tra, ripeto, 5 Stelle e Renzi. Bene. E ambedue devono fare i conti con una folla di cittadini a cui hanno promesso migliaia e migliaia di cose e che poi dovranno mantenere. Grazie a entrambi, e come insomma mi spiace per gli ascoltatori che ci hanno trovato faziosi, e abbiamo cercato comunque di dare spazio anche alle ragioni del sì e oltre a quelle del no che esprimevano i nostri due ospiti. Grazie a Carlo Rienzi, grazie a Aurora Lussana. Ora lasciamo la linea al GR, poi noi ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon venerdì. Ora ci dedichiamo allo sguardo dei giornali di oggi. Volevo ringraziare tutti gli ascoltatori che hanno mandato dei messaggi al 349-238-66 o sms o whatsapp. Ho guardato dal prefisso, c'è persino un ascoltatore da Singapore con questo prefisso 0065, e quindi ringrazio anche lui che da così lontano si sintonizza su Radio 24. Ma iniziamo dal Sole 24 Ore, anche se poi alle poco prima delle 7.45 ci raggiungerà Mauro Meazza e ci racconterà di più sul Sole 24 Ore di oggi, che mette in prima pagina le due notizie economiche più importanti di ieri. La prima è che il petrolio, dopo il taglio di produzione deciso dai paesi dell'OPEC e non solo, come era prevedibile, è risalito sopra i 50 dollari, che è considerato un po' la soglia critica, addirittura è arrivato a 54, e c'è stato un effetto positivo su Piazza Affari, che è stata l'unica borsa positiva grazie grazie appunto ai titoli legati all'energia e alle banche. L'altra notizia economica, che ieri l'Istat ha certificato che il PIL dovrebbe essere appunto in crescita dell'1%, e poi c'è stata anche la pubblicazione di quel dato, peraltro un po' controverso, sul calo della disoccupazione, anche se poi bisogna, come sottolineano altri giornali e il Sole 24 Ore naturalmente, guardare al numero esatto degli occupati più e oltre che alla percentuale. Il Corriere della Sera titola invece sul referendum: la riforma è la garanzia della stabilità, questa è una delle cose che ha detto ieri Renzi, che probabilmente anche per par condicio poi il Corriere della Sera nel sommario scrive: Grillo, due punti, bugie dal PD. La fotonotizia però è dedicata a Anas al-Bashah, che era un operatore umanitario di un'associazione che si chiama Space for Hope, e in particolare lui, che aveva 24 anni, faceva il clown, si vestiva da clown per cercare di rallegrare, riuscendoci anche per quanto incredibile, i bambini di Aleppo, e ieri è stato ucciso da un raid aereo. Vi segnalo dal Corriere della Sera una lunga intervista al Premier Renzi, che trovate poi a pagina 3, di Maria Teresa Meli, che il Corriere ha scelto di intitolare con questo virgolettato: non sarò mai uno che si barcamena, con la vittoria del sì garantita la stabilità. Anche se poi ieri chi ha visto la trasmissione di Lily Gruber sulla 7, 8 e mezzo, a domanda precisa di Lily Gruber: ma allora si dimette o non si dimette, cosa succede se vince il sì, cosa succede se vince il no, Renzi non ha dato una risposta così chiara come sembra aver dato invece al Corriere. La Repubblica ha una fotonotizia diversa, è dedicata a Hollande, l'attuale presidente francese François Hollande, che ieri in una diretta TV dall'Eliseo, la sede della presidenza francese, ha detto: non mi ricandiderò, e ha giustificato con un sibillino: devo pensare al bene della Francia. Il riferimento è da una parte al fatto che il suo consenso è al minimo storico, cioè circa il 10%, e appunto al fatto che probabilmente anche ricandidandosi non avrebbe chance di andare al ballottaggio, che sarà quasi certamente alle presidenziali francesi del 2017, tra François Fillon, che ha vinto le primarie del centrodestra, e Marine Le Pen. Ma mancano ancora tanti mesi, tante cose possono cambiare, anche se sul fronte del centrosinistra c'è un problema di leadership in Francia. Quindi questa è la fotonotizia. Il titolo però, come per il Corriere, è dedicato al referendum: gli ultimi duelli, l'iter Renzi-Grillo, e c'è stato, questa è una notazione che alla quale Repubblica dà uno spazio particolare, un boom di voti all'estero. E ricorderete settimana scorsa le dichiarazioni del fronte del no, che se per caso il sì dovesse vincere con una chiara spinta dai voti all'estero, sarebbero pronti altri ennesimi ricorsi. La Stampa, un titolo molto simile a quello di Corriere Repubblica: l'ultimo duello Renzi-Grillo. La Stampa ha un'intervista a Graziano Del Rio, il ministro per le infrastrutture, e che trovate poi a pagina 5, ma il senso di questa intervista, secondo come la sintetizza La Stampa in prima pagina: se vince il sì, siamo più forti nell'Unione Europea; se perdiamo, non ci sarà nessuna resa dei conti nel PD. Quindi tutti ancora appunto sempre a chiedersi che cosa davvero succederà all'indomani del voto, o già magari nella notte, quando si avranno risultati, a seconda di quanto sarà vicino il fronte del sì a quello del no. Comunque già nella nottata di domenica si dovrebbero avere i primi risultati. La fotonotizia è la stessa di Repubblica, cioè dedicata a François Hollande: la resa di Hollande, non mi ricandido. È la prima volta, come hanno sottolineato molti giornali, che un presidente in carica non tenta almeno una ricandidatura, quindi un'elezione a un secondo mandato. Messaggero, anche qui molto simile il titolo: Renzi Grillo, sfida delle piazze. Noto che il Messaggero, ma poi Mauro sicuramente ci parlerà anche dell'articolo sullo stesso argomento che ha scritto Mariano Maugeri per Il Sole, in prima pagina il Messaggero si collega al terremoto, e il titolo è: disagi e burocrazia per gli sfollati e un voto a ostacoli. Tra le tantissime difficoltà che devono fronteggiare le persone del centro Italia che sono state colpite dal terremoto, c'è anche a quella appunto di non riuscire a votare in un modo consueto. Si sta cercando di allestire dei seggi, ma non sarà comunque semplice. Sempre in prima pagina sul Messaggero, un'altra un'altra notizia che con questo risalto trovate solo sul Messaggero, statali più aumenti per le fasce di reddito dai 24 ai 26 mila euro. Sapete che tra le riforme in via di approvazione c'è quella della pubblica amministrazione, però è stato appena dichiarato incostituzionale una parte della riforma che dovrà essere quindi ritoccata, e uno dei punti più controversi è quello appunto degli aumenti. Dicevamo prima, nella prima parte di 24 Mattino, che ci sono giornali che si sono schierati apertamente per il no, non ce ne sono invece schierati apertamente per il sì, anche se poi ospitano opinioni di commentatori o di politici che sono schierati per il sì. Ecco, tra quelli schierati per il no, lo sapete sicuramente, c'è il Fatto Quotidiano, che oggi addirittura usa quel metodo della doppia copertina. Quindi se comprate il Fatto, la prima cosa che vedete è questo titolo, una risata per il no, con due disegni direi abbastanza caricaturali di Riccardo Mannelli, Renzi e Maria Elena Boschi che si guardano. Poi aprite, e questa è una specie di controcopertina satirica, perché poi c'è anche... ci sono molte vignette, tutte apertamente per il no, e la prima pagina vera e propria però del Fatto Quotidiano, dedicata a un titolo diverso. Il referendum tra l'altro viene ribattizzato referendum, e secondo il Fatto Quotidiano le Poste stanno facendo gli straordinari per imbucare le letterine del sì. Molti altri riferimenti anche al fatto che, visto che abbiamo nominato il sì, nominiamo il no, perché stasera il Fatto Quotidiano ha organizzato una manifestazione per appunto convincere a votare il no, con tutti i testimonial che si sono raccolti un po' intorno al fatto, anche personaggi dello spettacolo, per il no. L'Unità, un voto pensando al futuro. L'Unità naturalmente dà spazio, molto spazio, a chi invita a votare sì, anche perché l'Unità è il quotidiano del Partito Democratico e la maggioranza del Partito Democratico fa capo appunto a Renzi, e sappiamo Renzi naturalmente è per il sì, e infatti viene riportato delle tante dichiarazioni di ieri di Renzi: per il sì tanti italiani che non sono per me ma perché vogliono fare un passo in avanti. Però la foto notizia dedicata, come ha fatto il Corriere, alla morte di Anas Albascia, questo operatore umanitario di 24 anni. Il titolo è Le bombe che spengono i sorrisi. Infatti Anas Albascia, come abbiamo detto, è rimasto vittima di un raid aereo ieri ad Aleppo. Libero sceglie di titolare su quella vicenda terribile di Saronno, e il titolo è La strage in ospedale. Molto polemico l'occhiello, ecco il famoso modello della sanità lombarda. Naturalmente io credo che prendere questa vicenda, per quanto sconvolgente, e da qui trarre la conclusione che il modello della sanità lombarda non funziona, è un po' una forzatura. Comunque di questo parlerà poi Oscar Giannino dopo il GR delle 8, di questo e anche di altro, però di questa vicenda in particolare. La fotonotizia di Libero è però dedicata al sindaco di Torino Chiara Appendino, che ieri ha definitivamente detto di essere contraria alla TAV. E il titolo, anche qui molto forte, dell'articolo di Mattias Maniero, che poi trovate a pagina 9, è La sindaca che odia e ferma i treni veloci. Ah, c'è anche un articolo di Giuseppe Cruciani, visto che sicuramente insomma qui gli ascoltatori di Radio 24 lo conoscono bene, e l'articolo è richiamato in prima pagina, poi lo trovate a pagina 8, e parla della decisione di Laura Boldrini di settimana scorsa di rendere pubblici tutti i messaggi di odio che riceve su Facebook, e il titolo molto polemico dell'articolo di Giuseppe, che è altrettanto polemico, è Bollino nero della Boldrini per chi l'attacca sul web. Giuseppe non è d'accordo appunto su questa presa di posizione del presidente della Camera Boldrini contro gli haters, o i leoni da tastiera, chiamiamoli come vogliamo. Ci fermiamo però adesso un attimo per una pausa e ci ritroviamo subito dopo per le altre prime pagine e le pagine interne dei giornali di oggi. State ascoltando un programma offerto da Più libri, più liberi, Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, dal 7 all'11 dicembre al Palazzo dei Congressi dell'Euro, Roma. Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, bentrovati a questa rassegna stampa del venerdì. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, ci mancava l'Avvenire e qualche altro quotidiano, e l'Avvenire sceglie di titolare su un'intervista al ministro dell'economia Padoan che viene riassunta in un virgolettato importante del ministro, che è: l'Italia non rischia, cioè, per esempio, si è parlato tanto del rischio che potrebbe esserci per la finanziario per la nostra economia, e secondo Padoan invece questo rischio non c'è. E tra l'altro c'è un riferimento ai due dati economici di cui dicevamo di ieri, cioè la crescita del PIL, che dovrebbe essere, appunto, raggiungere quel famigerato, famoso 1%, e poi il dato sul lavoro. La fotonotizia però è dedicata a un nuovo dato che viene dall'ONU e che riguarda i migranti per l'ambiente, le regole da cambiare. Il nuovo dato è che entro nel 2050 saranno 200 milioni quelli legati, appunto, la migrazione legata ai cambiamenti dell'ambiente. In prima pagina anche l'annuncio di Hollande cede, non tento il bis alla presidenza. Titolo diverso per La Verità, il quotidiano fondato ormai quasi da due mesi da Maurizio Belpietro, dopo che se n'è andato dal Giornale. Come quasi sempre accade, La Verità ha un titolo diverso, fonte di inchieste, appunto, della Verità stessa, e qui è un'inchiesta sulle banche. Il titolo: volevano arrestare Bazzoli, uno dei grandi vecchi del sistema bancario italiano, e la figlia, e perché le dichiarazioni che La Verità riporta da questa informativa delle Fiamme Gialle, secondo questa informativa, il banchiere e altri 15 dirigenti di UbiBanca avevano un'indole delinquenziale. La fotonotizia è dedicata a Maria Elena Boschi, che ieri era a Napoli per l'inaugurazione in un teatro. Lei è in primo piano in questa fotografia, con questo vestito un po' scollato, e Luca Telese, giornalista, uomo e da oggi apprendiamo Arbiter Eleganzie, scrive un articolo molto critico verso la ministra, intitolato "Dopo l'oltraggio alla Costituzione, la Boschi maltratta pure l'eleganza", e definisce il vestito di Elena Boschi di una leggiadra bruttezza. È un vestito, per la cronaca, poi lo dice anche Telese a pagina 6, un vestito di Emilio Pucci, a cui Telese si rivolge, forse ignorando che Emilio Pucci è morto nel 1992 e che da due anni, tra l'altro, il marchio è disegnato da un altro stilista che si chiama Massimiliano Giorgetti, ma vabbè, questo gli sfugge. L'importanza per lui è parlare di questa scollatura della Boschi e di quanto, secondo lui, il vestito fosse brutto. Questo è il livello della critica al ministro. Ma comunque, Il Manifesto è, come dicevamo, un altro di quei giornali apertamente schierato per il no, tanto che il titolo di oggi è "Non uno di me", e poi grande, molto più grande delle altre lettere, no. In prima pagina anche la rinuncia di Hollande, con un articolo di Anna Maria Merlo che, appunto, fa un po', spiega quali potrebbero essere, poi l'ho trovata a pagina 8, quali potrebbero essere adesso gli scenari per le presidenziali e anche per il possibile candidato del centrosinistra, che quindi non sarà sicuramente Hollande, ma che in realtà va trovato. Ecco, devo dire, ho detto che non ci sono giornali che si schierano per il sì. In realtà Il Foglio, tramite il suo fondatore Giuliano Ferrara, è sempre stato per il sì, e anche oggi in prima pagina c'è questo articolo: "La ragionevolezza del sì, rispondere con un sorriso alle obiezioni della celebre Accozzaglia", perché sapete che una delle frasi per le quali tra l'altro è stato molto criticato di Renzi è quando qualche giorno fa ha detto che il fronte del no è un'accozzaglia. Passiamo alle pagine interne e ci spostiamo sul Corriere della Sera. In realtà trovate questa classifica anche su altri giornali, però qui è molto chiara la tabella che la illustra. C'è una classifica Barilla Economist su come si utilizza il cibo, su quanto ne viene sprecato. L'Italia solo sesta tra i virtuosi del cibo. In questa classifica infatti si parla degli sprechi, ma anche della buona alimentazione, e il punteggio di questo Foods Sustainability Index varia tra 0 e 100, e in realtà il paese più virtuoso secondo questa classifica è la Francia, con un 67,53, e l'Italia, appunto, è sesta con 63,87. una curiosità, ne abbiamo parlato prima con i nostri ospiti tra le 6:30 e le 7, la Repubblica riprende questa curiosa investitura, ma chi ha sentito le parole era anche insomma una delle battute di Berlusconi, che ieri ospite di Del Debbio ha detto: ma perché non fa lei il candidato del centrodestra, lei è il nostro Trump, riferendosi alla popolarità televisiva di Del Debbio, e quindi sarebbe perfetto. Ma vediamo ora, adesso abbiamo invece un altro ospite consueto, che è Mauro Meazza, che, come vi dicevo, ci racconterà e ci darà indicazioni su cosa leggere religiosamente oggi sul Sole 24 Ore. Buongiorno Mauro. Ah no, no, Mauro non è ancora disponibile. Allora vi segnalo sempre dalla Repubblica un lungo articolo di Bernardo Valli da Santa Clara a Cuba, perché sapete che dopo il funerale di Cuba adesso le ceneri di Castro stanno viaggiando per l'isola. Bernardo Valli ha seguito questa processione, diciamo, delle ceneri di Castro, quell'urna tra le reliquie della Revolución. Santa Clara è la prima tappa, un percorso inverso a quello dei liberatori che fecero la rivoluzione di Cuba. Ma adesso Mauro è arrivato. Eccoci, buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno, mi scuso per il ritardo, non ero preparato. No, ero distratto in realtà dall'articolo da meditazione che ti vorrei consigliare per oggi, che è il contributo di Moria Longo, comincia nella prima pagina, poi prosegue nella 2, sull'inflazione buona e l'inflazione cattiva. E l'inflazione cattiva, appunto, data da questo aumento sul riscaldamento del prezzo del petrolio, e quale può essere il riflesso, ma appunto essendo la meditazione non è che lo possiamo banalmente riassumere in 10 secondi, invito alla lettura, lo trovate tra la prima e la seconda pagina oggi del Sole 24 Ore. Poi naturalmente oggi, essendo venerdì, giusto Giulia? Venerdì, sì. Ecco, allora abbiamo anche Moda 24, ho scoperto tra l'altro Moda 24, che mi pare tu conosca come pagine, mi sembra che... No, te lo dico sempre, è una mia omonima. Ah, perché ho visto una firma Giulia Crivelli su Moda 24, pensavo fossi tu. Va bene, posso aver sbagliato, ma invece ho scoperto che l'export dei cosmetici, uno non lo direbbe, ma l'export dei cosmetici per noi vale 4,2 miliardi, quindi una cifra di tutto rispetto che oltretutto si attende molto anche dal periodo ovviamente natalizio, che è come sempre un periodo molto favorevole. Oh, molto interessante, non so se per caso hai già avuto occasione di citarlo, questa disponibilità di Londra a pagare dopo la Brexit per restare. Ho lasciato l'onore a te, perché in effetti... Ti ringrazio anche della premura, perché è abbastanza curioso questo fatto. Detto così in pochissime parole, poi trovate appunto i contributi di Leonardo Maisano oggi su Sole 24 Ore, che è successo che pur di restare con una parità di trattamento paragonabile a quella che hanno gli stati dell'Unione Europea, insomma, i ministri della Gran Bretagna ci hanno detto: vabbè, se c'è da pagare qualche contributo all'Unione Europea per restare con questa condizione di quasi UE, allora pagheremo. E quindi a questo punto sono quelli del Leave che pagano per il Remain, ma insomma adesso non vorrei confondere l'idea con quella della mattina. Leggete, trovate tutto sul Sole 24 Ore, come naturalmente qui Radio Fisco. Trovate anche la guida per il decreto legge fiscale. Sai che la legge di bilancio è stata preceduta da questo forte antipasto, quasi una pericena della manovra. Ecco, la pericena della manovra del decreto legge fiscale è ormai diventato legge. Ci occupiamo oggi di illustrare le modifiche relative alle presunzioni di evasione sui prelievi e versamenti dei professionisti, presunzioni che non ci sono più, come ben sanno i professionisti, ma possono trovare tutti i dettagli. E poi c'è la chiusura delle famose partite IVA inattive. E invece l'articolo, scusami, perché io pensavo se tu lo citassi subito l'avresti fatto, sono sicura, però se quello, un altro articolo in prima pagina, quello di Maugeri sul che ci riporta alla tragedia del terremoto. Interessante. Ah, sicuramente, guarda, ma ho sentito che già lo evocavi perché ti aveva colpito. Sì, effettivamente Maugeri ci racconta da Norcia oggi, e lo trovi nelle pagine della prima parte del Sole 24 Ore, di questi, diciamo, di questa ricostruzione fai da te, nel senso che chi aveva disponibilità si è comperato delle casette di legno. Perché? Perché è molto complicata l'assegnazione degli aiuti, l'assegnazione dei vari container e così via, e quindi insomma qualcuno ha deciso di arrangiarsi un po' da solo, naturalmente con dei supporti, come spiega Maugeri, cioè di andando a individuare delle zone dove poteva contare sugli allacciamenti alla rete fognaria, alla rete elettrica. È tutto raccontato oggi sul Sole 24 Ore, appunto, da Mariano Maugeri. Oh, ti voglio anche segnalare che la Commissione europea ha accettato la posizione che era stata già della Francia e ora anche dell'Italia di ridurre l'IVA sui prodotti, sulle pubblicazioni online, sulle pubblicazioni digitali. Equiparate quindi ai libri di carta. Esattamente così, vedo che mi compiaccio perché è un argomento che mi sta a cuore. Sei molto preparata sul punto e questo mi fa molto piacere. Allora la proposta è usiamo l'IVA ridotta anche per gli ebook, ad esempio, cioè i libri distribuiti in digitale. Era una richiesta, era stata della Francia e poi anche dell'Italia, che ora sarà accolta, ci vuole ancora qualche passaggio, ma si prepara ad essere accolta. E poi, in ultimo, ma non per questo meno importante, come si dice, vi segnalo le ricadute dell'accordo sugli statali, perché adesso, fatto l'intesa tra governo e statali, bisognerà trovare come applicarla. E allora Gianni Trovati già si interroga su come si potrebbe in qualche modo gestire, ad esempio, l'aumento senza evitare di far perdere il bonus degli 80 euro a coloro che lo prendono, e altri nodi, tutti quanti esplorati da oggi sul Sole 24 Ore. Con tutto ciò premesso, sono contento che oggi ci sia tu, cara Giulia, perché così non ci saranno auguri scaramantici per quanto riguarda la partita di questa sera. E allora ti auguro una serena domenica, l'auguro, devo dire, a tutti noi, visto come sono andate le ultime settimane di campagna elettorale referendaria, e soprattutto, come sempre, traffico! Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon venerdì, bentrovati per quest'ultimissima parte della rassegna. E vi segnalo dalla Stampa un racconto di quello che è stato ieri il discorso del presidente russo Vladimir Putin alla nazione, e ha parlato molto di crisi economica e di politica estera. Da qui il titolo dell'articolo: Putin tende la mano a Trump. Il leader del Cremlino ha infatti detto chiaramente, e questo è un virgolettato: sono pronto a collaborare, non vogliamo nemici. E per quanto riguarda la questione siriana ha detto: finiremo il lavoro. E allora spostiamoci un attimo sull'Avvenire, che fa una cronaca da Aleppo, ci aggiorna su quello che sta succedendo a Aleppo, l'offensiva di Mosca, corridoi per Aleppo, però in realtà chi è lì può raccontare che non sono stati evacuati i feriti e non si ferma l'esodo dai quartieri orientali. Secondo l'ONU ci sono 200.000 persone in questo momento completamente senza aiuti, e in 400 hanno bisogno di cure immediate. Sapete che molti ospedali sono stati chiusi, quindi Aleppo, appunto, la Stampa e l'Avvenire accendono un faro sulla situazione della città siriana sotto assedio, dove abbiamo visto ieri è morto, ha fatto notizia, il Corriere l'ha messo in prima pagina, è morto in uno dei tantissimi raid aerei che proseguono anche un operatore umanitario che in particolare si occupava dei bambini. Dall'Unità vi segnalo questo articolo perché, come sapete, Trump sta mettendo insieme la sua squadra per il governo. Tra l'altro sulla Stampa si fa riferimento alla nomina come ministro della difesa, segretario della difesa, che poi è stata confermata nella notte, che è il numero uno, che quindi sarà ministro della difesa numero uno del Pentagono, e sarebbe l'ex generale dei Marines James Mattis. Invece come segretario al tesoro c'è un banchiere di Wall Street, quindi l'Unità, la riscossa di Wall Street, Goldman Sachs alla Casa Bianca. E secondo me è interessante sono interessanti queste scelte di Trump, perché si è detto anche giustamente che molti dei voti dati a Trump erano voti contro l'establishment, anche finanziario, e guardate un po' ora chi è il segretario del tesoro. Più establishment finanziario di così, un ex banchiere della Goldman Sachs, credo che non si possa dal Libero, vi segnalo, e qui ringrazio l'ascoltatore che mi ha ricordato che Belpietro, quando poi ha fondato La Verità, veniva da Libero e non dal Giornale. Perdonatemi, ma sapete che tra Libero e Giornale ci sono stati molti cambi di direzione, ogni tanto ne perdo la cronologia esatta. In ogni caso, da Libero un articolo di Renato Farina, un'intervista di Renato Farina a Flavio Briatore, che è residente tecnicamente all'estero, quindi ha votato dall'estero e ha votato per il sì, ha già votato, l'ho anche già detto. Così parlò Briatore, trumpista al billionaire, quindi una figura sicuramente con molte controversie, e che qui spiega di essere per il sì, anche se per esempio è un fan di Trump, quando sappiamo che poi per esempio Renzi e il PD non sono fan di Trump, quindi forse dimostra che insomma non tutti votano sì per mostrare anche di essere favorevoli al governo Renzi, e viceversa non tutti votano no come voto di protesta al governo Renzi. Quell'articolo che vi dicevo sulla Verità di Luca Telese, che prende spunto dalla scollatura di ieri del ministro Boschi, che ha partecipato alla serata inaugurale della stagione del Teatro San Carlo di Napoli. Un'altra approfondimento sulla sanità, visto che della vicenda di Saronno si parlerà tra poco dopo il GR con Oscar Giannino. La Verità però ha un'inchiesta intitolata "I nostri ospedali che manna per gli europei". Ogni anno le regioni italiane del centro-nord spendono oltre 67 milioni di euro per curare i cittadini comunitari, perché sapete che uno dei vantaggi, se delle regole che appunto dell'Unione Europea, è che se si è in un paese dell'Unione si ha diritto alle cure sanitarie. Quelli che gravano di più sulle nostre finanze, spiega La Verità, sono di gran lungo i romeni, seguiti a sorpresa da tedeschi, francesi e britannici. Un'ultimissima segnalazione ve la faccio dal secolo XIX, perché questo è un tema, quello della logistica, in particolare della logistica via mare, interessantissimo, di cui però non si parla spesso. E quindi Genova, dove c'è naturalmente un polo logistico importantissimo per i container, spiega come la logistica italiana sia ancora ci sia un deficit logistico, e che ogni anno l'Italia è costretta a pagare 10 miliardi. Era l'ultima segnalazione che sono riuscita a farvi per oggi. Ringrazio Carmelo Lauricelli in regia e Lorenzo Nespoli in redazione. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno mandato dei messaggi, e grazie a chi me li ha mandati o vorrà mandarmeli su Twitter all'account Giulia_Crivelli. Ora lascio la parola al GR delle 8. Noi ci sentiamo domani per la rassegna stampa europea alle 6:15, per chi di voi sarà alzato, e poi domenica con quella dei quotidiani italiani intorno alle 7:15. Ancora un buon venerdì da Giulia Crivelli.